è un altro modo per cercare di capire dove siete. Sul profilo Facebook c'è una, come si chiama, un album fotografico che abbiamo creato, che si chiama Voi siete qui. E la cosa che ho chiesto di fare è stata semplicemente di scattare una foto al luogo che preferite, il luogo in cui passate più tempo, il luogo che vi rappresenta di più. Può essere un luogo fisico, può essere il vostro letto, la vostra scrivania, ma anche può essere il luogo in cui passate le vacanze, il luogo in cui vorreste essere, o il luogo in cui eravate e vi sentite di essere. Vi ripeto che se andate sul profilo c'è proprio questo album e potete caricare la vostra foto. Ne sono già arrivate una quarantina. Una di queste che ho in mano, la cosa poi che mi piacerebbe fare è proprio descrivere queste foto. E tra l'altro, giusto, vero Bonini? Da lunedì, ci sono sul pezzo, da lunedì sulla pagina Io sono qui del sito di Radio 24 noi pubblicheremo una foto al giorno, giusto? Siamo sicuri? Non è che poi dobbiamo andare da Valeria a dire è vero, non è vero. A proposito, un'altra cosa riguardo a proposito del sito, poi torniamo a Voi siete qui. Tutti mi chiedono dei podcast e della replica notturna. La replica notturna, peraltro chi me lo chiede in realtà non ha bisogno di sentirlo adesso, lo sentirà nella replica notturna, e se non c'è la replica notturna non lo sentirà. Dovrebbe esserci, dovrebbe essere all'una e mezza. Il podcast invece c'è sul sito della radio. L'abbonamento iTunes arriverà. Più di così non vi so dire. Torniamo invece a Voi siete qui, il modo per mappare dove siete voi. Per esempio ho in mano una foto che mi ha spedito Matteo Ravera ed è la foto del suo studio. Ci sono due tavoli, uno a L, uno incrociato all'altro, e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schermi di computer pieni di grafici, diagrammi, è chiaramente qualcosa di borsa. Ha 3 mouse, un paio di occhiali da sole, 2 tastiere, e intorno poi ha una lampada tizio come quella che ho venduto l'anno scorso dell'Artemide o Artemide, non lo so. E poi quadri appesi alle pareti, libri, e lui mi scrive: Matteo Ravera, il mio studio ufficio, mi chiamo Matteo e sono un trader, io sono qui. Se avete voglia di caricare la foto di dove siete, di raccontarmelo, andate sul profilo, è Io sono qui Matteo Caccia, Io sono qui, lo caricate. Ci sono già una quarantina di foto e da lunedì prossimo ogni giorno avremo una vostra foto sul sito di Radio 24 Civile.